Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con i settimanali periodici italiani e stranieri. Innanzitutto oggi cominciamo all'insegna della bicicletta. Il riferimento naturalmente è doveroso. Oggi parte il Giro d'Italia, tra gli altri settimanali che ce lo ricordano c'è stato anche 7, che trovate ancora in edicola col Corriere della Sera, ha proprio dedicato alla corsa, al tracciato del Giro d'Italia, una pagina in cui viene ricordata anche questa partenza inconsueta appunto da Amsterdam con un cronometro individuale che si svolgerà oggi. Naturalmente potrete seguirla come sempre da Radio 24 per essere aggiornati sull'andamento. Poi da Amsterdam chiaramente si scenderà verso sud fino a raggiungere l'Italia. Il Giro naturalmente potete seguirlo anche come al solito in televisione, noi vi invitiamo a farlo invece tramite le frequenze di Radio 24. Perché vi parlo di bicicletta? Però non solo perché c'è il Giro d'Italia, ma perché proprio da 7, che ha dedicato alla bicicletta la sua copertina, proprio da 7 ricavo la notizia che domani, domenica, sarà la prima giornata nazionale della bicicletta. È un'iniziativa che è nata dalla collaborazione tra ANCI, il Ministero dell'Ambiente, l'ANCMA, per promuovere una nuova sostenibilità urbana. Leggo sempre appunto da 7. Nuova sostenibilità urbana e non solo, perché in questo ambito nasce anche un progetto che è stato molto voluto dall'indimenticabile direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò, che aveva voluto pensare a un concorso, assegnare una maglia bianca al corridore con meno di 25 anni che è meglio posizionato nella classifica generale del Giro, giorno per giorno. Quindi 9 maggio, domani, domenica, giornata nazionale della bicicletta, con il che poi giustamente da 7 una serie di riflessioni sulle persone note o meno note che usano la bicicletta. Ad esempio, per quelli meno noti, soprattutto a beneficio dei meno noti, segnalo che c'è anche una classifica che potete trovare sul magazine del Corriere, dove vengono rappresentate le distanze percorribili in bicicletta su piste ciclabili nelle maggiori città italiane. In testa, non sorprendentemente verrebbe da dire, Reggio Emilia. Ci sono 143 chilometri addirittura di piste ciclabili, segue Mantova molto distante, 46 chilometri, Lodi con 26. Per arrivare a Milano dobbiamo scendere la classifica fino al 63° posto, figurano 76 chilometri. Roma è appena meglio posizionata di Milano, è al 59° posto. Una lunga didascalia a questa tabella ci avverte peraltro che tutte le piste ciclabili delle città italiane a stento pareggiano la somma di quelle di 3 città europee, che sono Vienna, Helsinki e Copenaghen. Peraltro appunto non si parla di climi particolarmente adatti o che si pensano particolarmente adatti alle due ruote, alla bicicletta, però purtroppo tocca prendere atto che siamo abbastanza mal posizionati in questo particolare giro d'Europa per le piste ciclabili. E allora, visto che abbiamo parlato di sport, cominciamo a sfogliare Wired, in edicola Wired di maggio. Wired, sapete, è un mensile che si occupa di innovazione, si occupa tra l'altro anche di temi molto importanti, come ad esempio il prossimo arrivo sarà a fine maggio del famoso iPad, cioè questa tavoletta che dovrebbe cambiare il nostro rapporto con i giornali, i libri e la rete in genere. Ma c'è una pagina molto interessante curata da Maurizio Zoia, in cui si parla di innovazione nello sport, perché ci sono stati degli innovatori determinanti che hanno cambiato delle discipline, hanno consentito anche di spostare in là i risultati proprio grazie alla loro inventiva. Tutti penso conoscete il salto cosiddetto Fosbury, che è il fatto di sorpassare di spalle l'asticella del salto in alto. Ecco, fino a che Dick Fosbury, che era appunto un atleta americano, non pensò a mettere in atto questo salto, lo mostrò per la prima volta a Città del Messico nel 68, alle Olimpiadi. Ebbene, fino a quell'ora, fino a quell'anno, non si usava scavalcare l'asticella frontalmente, appunto si faceva un salto che si chiamava allora ventrale. Fosbury fu un innovatore decisamente importante e poi ha consentito di alzare di parecchi centimetri le possibilità di salto in alto. Ma non c'è solo questo ricordo, che naturalmente è il primo tra gli innovatori dello sport, tra quelli classificati da Wired. Ad esempio, in uno dei 10 delle 10 innovazioni più interessanti ci ricordano che non è obbligatorio calciare un calcio di rigore direttamente in porta. Dice Zoya: non sono però in molti a saperlo. Certamente lo sapeva Cruyff, Johan Cruyff. Durante una partita del 1982 mise palla sul dischetto, la passò in avanti a un compagno che prontamente gliela ridiede, permettendogli di segnare a porta vuota. Pochi gli imitatori, avverte Zoya, di questa innovazione, quasi tutti maldestri. Certo, avendo avuto anche Cruyff come primo ispiratore, era difficile cercare poi un emulo all'altezza. Un'altra innovazione particolare e più risalente nel tempo è quella della partenza degli scattisti, di coloro che corrono i 100 e i 200 metri. La posizione rannicchiata in realtà è stata messa a punto alle Olimpiadi di Atene, è stata mostrata alle Olimpiadi di Atene nel 1896, quindi è un'innovazione che ha ormai più di un secolo di vita. Fu Thomas Burke, un americano, che si mise a appunto rannicchiato sulla partenza per poter sfruttare la forza propulsiva che, come avverte Zoya, deriva dalla posizione rannicchiata. Da allora poi tutti gli sprinter usano questa tecnica, che poi è stata anche facilitata dall'introduzione dei blocchi di partenza. Ecco, i blocchi di partenza non sono sempre esistiti, sono apparsi per la prima volta alle Olimpiadi di Londra nel 1948. Ancora due innovazioni interessanti, una tecnologica: le racchette da tennis, racchette di metallo, come ricorderanno gli ascoltatori, diciamo non più giovanissimi, si giocava abitualmente il tennis con racchette di legno, ma Jimmy Connors a un certo punto si presentò negli anni 70 con una racchetta metallica, e questa racchetta metallica poi ebbe una fortuna enorme, perché attualmente i tennisti giocano praticamente tutti con racchette di tipo metallico. Infine, un'innovazione proprio di un gesto anche qui introdotto da un campione assoluto: il gancio cielo. Cos'è il gancio cielo? Gli appassionati di basket lo sapranno molto bene. È stato definito l'arma più devastante nella storia del basket dall'allenatore di colui che appunto aveva inventato questo modo di tirare, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, quando militava nei Los Angeles Lakers, con le sue braccia lunghissime riusciva a tirare a canestro con la mano più lontana dal difensore avversario e imprimeva al pallone una parabola discendente, che quindi non era poi intercettabile. Il cosiddetto gancio cielo, messo appunto da Jabbar, e che è diventato un gesto simbolico nel basket. Allora, restiamo sulle innovazioni, ma come vi dicevo prima, spostiamoci sulla tecnologia. Già nelle puntate scorse abbiamo avuto occasione di segnalarvi come sui settimanali, sui mensili italiani e stranieri sono apparsi diversi articoli, analisi, commenti su questo nuovo giocattolo, questa nuova diavoleria tecnologica che è l'iPad. È questa tavoletta che consente appunto di leggere un libro, sfogliare un giornale, scaricare libri da internet, eccetera. Questa novità assoluta arriverà in Italia, sarà in vendita in Italia da fine maggio. Tra i tanti settimanali che se ne occupa, naturalmente c'è Wired come mensile, che dedica all'iPad una serie di servizi molto ampia. Ma mi fa piacere segnalarvi ad esempio Famiglia Cristiana, perché Federico Polvara fa una sorta di riassunto che può essere utile anche per chi non è proprio malato di tecnologia. iPad il rivoluzionario, il titolo del suo servizio. Dice: arriva anche in Italia il nuovo dispositivo. Tra l'altro, la prossima settimana dovrebbe essere possibile prenotare online l'apparecchio. La consegna comunque è prevista a fine mese. E questo iPad racchiude in uno schermo che è sensibile al tocco, cioè è un touch screen come si dice adesso, e dalle dimensioni che sono appena meno di un foglio A4, le funzioni di un computer, un lettore digitale per musica, video, ebook e film, di agenda, console di gioco e navigatore per internet. Dice Polvara: sarà un evento importante, carico di attese, perché l'uscita di ogni nuova diavoleria della Apple ha puntualmente dato una vigorosa e positiva scossa al mercato. Pensiamo all'iPod per la musica digitale, l'iPhone per la telefonia. Cosa si può fare con questo coso? E chiedo naturalmente scusa a tutti invece le tecno vittime che saranno appassionate alla cosa. Si può navigare, leggere la posta elettronica, guardare foto e video, ascoltare e acquistare musica digitale, usare applicazioni come giochi o Facebook, consultare mappe stradali, scriverci appunti, tenere un'agenda, consultare una rubrica di contatti personali e poi soprattutto leggere libri, giornali e riviste in formato elettronico. Vedremo se tra qualche settimana dovremo adeguarci subito anche noi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo fatto ricorso a Famiglia Cristiana per parlarvi di questa nuova diavoleria, così la chiama Polvara su Famiglia Cristiana, diavoleria elettronica che sarà l'iPad, lo vedremo a fine mese. Naturalmente Wired dedica amplissimo spazio all'iPad, arriva l'iPad tabula rasa, così la tecnologia facile ci migliorerà la vita, e da questo poi si passa a una serie di servizi molto dettagliati. Ma che ci potremo mai fare con questo iPad? Beh, ognuno, in realtà diverse persone sono state chiamate a rispondere a questa domanda, segnalando, che ne so, la comodità di poter leggere un libro a letto ad esempio, o piuttosto quella di guardare un film, o il fatto di avere a disposizione dei lettori, uno schermo che è decisamente più grande di quelli a cui siamo ormai abituati con i telefonini ad esempio, anche quelli di ultima generazione, e quindi saremo indubbiamente più comodi. Ma proprio al telefonino Wired in questo numero dedica una interessante rassegna. Si sono ingegnati i colleghi di Wired a vedere come sono cambiati, specialmente in peso e in durata, i telefonini in questi, diciamo, ultimi 20 anni. In realtà sono 31 gli anni di esercizio da considerare per il telefonino, per il telefono cellulare, diciamo la diffusione vera e propria è degli ultimi 20. Beh, è interessante vedere da una doppia pagina che compare proprio su Wired di questo mese che ad esempio un Motorola Dynatac dei primi modelli pesava qualcosa come 800 grammi, quindi insomma 8 etti, un bel peso, era quel modello molto stretto e alto con un antennone, forse qualcuno se lo ricorda. Poi decisamente meglio andava, sempre con la stessa casa, la Motorola, con un telefonino che era di 350 grammi, il primo che aveva, se lo ricordate, quel coperchietto che si poteva aprire e scopriva poi i tasti. Via via i pesi sono sempre diminuiti. A un certo punto si è arrivati addirittura sotto un etto di peso, quindi 83 grammi, partendo, ripeto, da 8 etti, quindi quasi, diciamo, poco meno di un chilo da portarsi addosso. Attualmente l'iPhone, che è uno naturalmente dei modelli più diffusi della Apple, pesa 135 grammi. Interessantissimo notare come siano progredite le capacità di tenuta, perché il primo modello che viene analizzato durava mezz'ora, se si parlava poteva arrivare a 8 ore di massima, adesso noi ragioniamo praticamente in termini di 8 ore per parlare, 250 ore soltanto per ricevere, cioè per poter restare acceso, sono ormai 250-280 ore dei livelli di tenuta delle batterie dei telefonini che sono attualmente disponibili, attualmente raggiungibili. E al telefonino è dedicato anche un passaggio molto divertente della lunga intervista al personaggio che sta in copertina su Wired, che è Fiorello, perché Fiorello racconta a Wired un po' il suo essere un tecnologo tardivo, dice praticamente di essere arrivato al computer soltanto ai 50 anni, si definisce un tardivo digitale, dice che però ora naturalmente non può più fare a meno del computer. computer racconta qualcosa di divertente sul suo rapporto con il telefono cellulare. Dice: è tutta colpa del telefonino, quell'affare ha cambiato tutto, ero terrorizzato dall'idea di poter essere sempre reperibile. Quando mi hanno detto che si poteva spegnere ho tirato un sospiro di sollievo. Che nostalgia pensare a mia madre che chiamava il bar per sapere dove cavolo ero finito quando ero in ritardo. E così questo è uno dei ricordi di Fiorello. Un passaggio divertente di questa intervista, appunto, dice: una volta mia moglie, rivela Fiorello, mi suggerì di mandarmi un SMS da solo per ricordarmi di un appuntamento. Io non credevo che si potesse fare, per cui ho provato con un testo, ho scritto ciao sul cellulare, poi ho digitato il mio numero e ho inviato questo SMS. Ho messo il telefono, rigorosamente sempre senza suoneria, in tasca, mi sono dimenticato di tutto. Quando l'ho ripreso in mano mi sono trovato un SMS con scritto ciao. Siccome non riconoscevo il numero, ho risposto ciao a te, ma chi sei? Passa un'altra ora, mi trovo una risposta ciao a te, chi sei? Ho dovuto sprecare, insomma, altri due messaggi di insulti prima di ricordarmi e di capire che in realtà mi stavo scrivendo da solo. E allora, restiamo sempre in ambito di innovazioni tecnologiche, ma andiamo un pochino più indietro nel tempo. Questa settimana Donna Moderna ricorda che il 9 maggio del 1960, quindi domani saranno esattamente 50 anni, la pillola anticoncezionale debuttava sul mercato americano. Il settimanale Time titolava «La pillola che libera il sesso». Oggi, 50 anni dopo, lo stesso giornale scrive in copertina: «Così piccola, così potente, così incompresa». Perché, riferisce Flora Casalinuovo su Donna Moderna, c'è poco da festeggiare se quella scoperta che doveva aiutare le donne, dalle donne in realtà non è utilizzata. Nel 2010, negli Stati Uniti, c'è un 50% di gravidanze indesiderato. E anche da noi la situazione non sembra particolarmente propizia, insomma, all'uso di questa tecnica, di questo farmaco anticoncezionale, perché si dice che, secondo l'ultima ricerca della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, solo il 16% delle italiane prende la pillola. C'è in realtà un 50% delle olandesi, un 40% delle francesi. Secondo Alessandra Graziottin, che viene intervistata appunto da Donna Moderna, siamo per il consumo della pillola al terzultimo posto in Europa. La colpa, probabilmente, i motivi di questo poco uso sono da attribuire a una serie di considerazioni, non ultima magari anche la mentalità cattolica, ma dice la stessa Graziottin: la contraccezione è ancora un tabù, non se ne parla in famiglia, non se ne parla a scuola, non se ne parla in televisione, quindi il medicinale più innovativo è diventato poi in realtà il più accusato. Si dice che abbassa la fertilità, che fa ingrassare, tutte cose che la Graziottin stessa dice no, sono assurdità, anzi è un medicinale che protegge anche da altri malanni decisamente maggiori di quelli evocati. Quindi 50 anni dalla prima diffusione commerciale della pillola, ancora poco usata in Italia, più usata invece in altri paesi. Restiamo allora su Donna Moderna, perché nella testata dedicata all'attualità, nelle pagine dedicate all'attualità, Maurizio Dalla Palma ci segnala una particolare emergenza tra le mura domestiche, un'emergenza di cui parlare è tabù, avverte, è un fenomeno però sempre più diffuso. Si tratta della violenza dei figli nei confronti dei genitori, quindi violenza familiare in qualche modo, ma che sta assumendo dei contorni, diciamo, meno prevedibili, meno immaginati, o forse soltanto meno riferiti fino a qualche tempo fa. Un fenomeno grave, sottostimato, ma in crescita, dice appunto Dalla Palma, che semina allarme in Francia e in Spagna, ma che in Italia rimane sepolto come un tabù. Sono le violenze dei figli contro i genitori, non quelle commesse da tossicodipendenti o baby criminali, no, i sabotatori della pace familiare sono adolescenti di 14, 16, 18 anni, giovani adulti, che in modo sistematico minacciano, picchiano, ricattano, mettono sotto indicibili pressioni psicologiche le mamme e i papà. Ci sono esplosioni di violenza contro i genitori che stanno diventando via via più frequenti. Questa è anche l'opinione di uno psicoterapeuta sentito appunto dalla Palma, si tratta di Fulvio Scaparro. In un certo senso il giudizio di Scaparro rappresentano una novità. Antiche come il mondo, queste vessazioni erano fino a poco tempo fa una infrazione ingiustificabile. Oggi è invece un fatto ordinario che non manda in crisi i ragazzi ma i genitori. In Italia però mancano dei dati certi, le violenze dei giovani despoti si perdono sotto l'etichetta del bullismo e della cronaca nera, ma in Spagna, dove la legge punisce i minorenni che maltrattano i genitori, le denunce sono raddoppiate in 2 anni, siamo arrivati nel 2008 a 4.000 denunce. In Francia c'è un centro di ascolto per ragazzi violenti che è attivo nella regione di Parigi. Nel 2009 ha ricevuto 650 chiamate da genitori che invece erano aggrediti dai figli. Questa la segnalazione su un particolare caso di violenza domestica, appunto fenomeno che viene definito come in ascesa, in crescita, e di cui si parla ancora poco. È la segnalazione da Donna Moderna di questa settimana. E allora, con questa indicazione, con questo ultimo consiglio di lettura, si conclude la puntata di oggi di Magazine 24. Io ringrazio Fabio Cantadori che mi ha assistito questa mattina in regia. Naturalmente grazie anche a Vittoria Mussini e Margherita Aina che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Programma che, come tutti i programmi di Radio 24, potete riascoltare sul nostro sito www.radio24.it. Io invece vi do appuntamento, per chi volesse seguirci in diretta, a domani mattina alla stessa ora alle 8.30 per la puntata domenicale di Magazine 24. A risentirci.